Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Freddo cane in questa palude, i miei amici fanno scherzi idioti, sai, loro spengono la sera e si nascondono nei fossi per vedere come me la caverei. Freddo cane, carne cruda, coccodrilli a quest'ora cenano, io non ho con me il fucile ma mi sento come Zador, neanche questa volta mi fregano. Troppo silenzio, è possibile che tutti dormano? Qualche cosa urlerò. E con Luciano Ligabue apriamo anche questa puntata del Fumetti a Sinistra, un mondo dentro i balloon, che ci parla di una malattia contagiosa, una malattia però benefica, il cui virus è l'entusiasmo, è il contagio, e speriamo che non esista al mondo vaccino alcuno, del fumetti e in particolare del pioniere che in qualche modo sta allargando i suoi confini anche nelle collaborazioni in giro per l'Italia. Spuntano così anche dei prodotti video che potrete trovare naturalmente su YouTube, che parlano di questa esperienza del CRAP, il Comitato Ricerche Associazione Pioniere d'Italia. Diamo dunque il benvenuto a Patrizia Panatta, che a Roma ha incontrato il pioniere, è stata contagiata dal morbo del fumetto e ha costruito questo video che in qualche modo riassume l'attività del CRAP, compresa quella della nostra piccola e umile trasmissione. Morina Moretti l'ha intervistata per capire perché questa passione e quali sono i meccanismi che portano ad avvicinarsi ad un fumetto così antico degli anni 50, ma al contempo anche evidentemente così attuale. Ci scusiamo per il rumore di fondo, ma l'intervista è stata effettuata durante la serata organizzata dall'Associazione Articolo 3 della Costituzione, dove appunto si è presentato questo video. Patrizia, ho visto adesso il tuo video, hai fatto un bellissimo video. Grazie. Sul pioniere, come l'hai organizzato? Allora, niente, in pratica Carlo mi ha parlato di questo, dell'esistenza di questo giornalino, di cui ovviamente ero completa insaputa. Anche per motivi generazionali, come me. Anche per motivi generazionali, sicuramente per motivi generazionali. Inizialmente, insomma, non avevo ben capito la portata, diciamo, l'entità di questo lavoro fatto da Rodari e dai suoi collaboratori. E, ho proposto io di fare un video quando, con il direttivo dell'associazione Articolo 3, di cui Carlo fa parte, abbiamo deciso di presentare questo giornalino che, insomma, è uscito tra gli anni 50 e gli anni 70. Sì, è un progetto, diciamo, Carlo ha raccolto, e lo sappiamo, tutti i numeri, e c'è questo bellissimo archivio in rete. Tu hai, per il tuo video, pescato da questo archivio, hai utilizzato diverso materiale e sei riuscita anche a fare una bella sintesi. Non è semplice. In effetti non è stata, diciamo, la prima e ultima prova. Ho fatto il video anche 3 o 4 volte, credo, e non riuscivo a capire come poter sintetizzare appunto tutto il lavoro svolto sia da Carlo nel digitalizzare, scannerizzare, cercare, diciamo, documentazione in giro per l'Italia, sia nel sintetizzare il lavoro, il pensiero soprattutto di Rodari e dei suoi collaboratori. E quindi alla fine ho deciso di partire dalla fase finale, diciamo, del progetto, ossia la realizzazione. E andando a ritroso nel tempo ho deciso di inserire dalla presentazione, diciamo, del progetto digitalizzato, a sfogliare proprio il giornalino come se lo avessi lì davanti. E niente, così è nata l'idea del video. E so che di solito le immagini con la musica rendono sempre molto più leggero quel che si può rappresentare. Però non so se sono riuscita essere sintetica, perché questo video comunque ha una vita propria, al di là del fatto che è stato fatto, diciamo, in occasione di questa serata, però vive di vita sua, si può assolutamente vedere, e io trovo anche che sia abbastanza esplicita, bene, spiega bene il percorso. Allora, la passione di Carlo mi ha contagiato letteralmente. Mi sono resa conto di dovermi impegnare in questa cosa da un semplice fatto di vita quotidiana. E mio figlio piccolo mi stava ripetendo la lezione di storia, proprio sulla Seconda Guerra Mondiale, e così per curiosità abbiamo sfogliato insieme le pagine del libro e ci siamo resi conto, mi sono resa conto, che del periodo della lotta partigiana il libro dedicava semplicemente 12 righe, 3 delle quali raccontavano dello sbarco degli alleati. Quindi ho sentito proprio la necessità di dover innanzitutto spiegare a mio figlio la storia della Resistenza, e secondo, appunto, di dare un contributo fattivo a questa realizzazione di un progetto che secondo me deve tornare tra i ragazzi, perché è stato fatto con i ragazzi e per i ragazzi. E quindi, ecco, mi sono, insomma, proposta per realizzare un video che potesse spiegare, anche se molto, in maniera molto riduttiva, tutto il progetto che c'è stato dietro. E dall'inno della Gioventù Comunista Internazionale, inno che ben si adatta agli ideali e alle prospettive dei pionieri di Cipollino e D'Attomino, invece passiamo la parola ad Andrea Plasti, esperto di fumetti dell'editoria Fumo di China, che è ancora una volta ospite della trasmissione Nino Augusto Fujiko di Michele Pompei, e che oggi ci racconta un po' di enciclopedismo, diciamo così, del fumetto. Una pagina che gli appassionati di fumetti conoscono, perché più o meno accidentalmente, che vuol dire che è importante e che è ben referenziata, e questa è una buona cosa, visitano ogni tanto, ed è la voce fumetto della enciclopedia Treccani Online, quindi quella che dovrebbe essere più o meno per autorità la definizione di un termine nella nostra lingua. In realtà è un po' più di una definizione, è un bel lemma, bello corposo, parto e liquido liquido rapidamente i 9 decimi della voce, che sono una sintesi enciclopedica, che non è una contraddizione in termini, perché c'è veramente di tutto in maniera sinteticissima della storia del fumetto, con riferimenti a opere, autori che vanno dagli inizi diciamo ufficiali, che in Italia datano convenzionalmente al 1908 con l'uscita del Corriere dei Piccoli, e che in altri mercati tipicamente fondamentali come quelle degli Stati Uniti, sono un po' retrodatate, quindi diciamo 1895-96 con la nascita dello Yellow Kid di Pulitzer negli Stati Uniti. Quindi questo è di per sé un punto di partenza interessante per informarsi, approfondimenti, soprattutto tingere a una prima serie di riferimenti bibliografici e di risorse online. La parte però interessante su cui vorrei rubare qualche minuto sono le poche righe iniziali dove c'è la definizione di fumetto e qualche considerazione che espande un po' la definizione, che dovrebbe far capire un po' questa la struttura dei iniziali dei lemmi, al di là della definizione formale, di che cosa si tratta. Vi rubo qualche secondo leggendola. Il fumetto è definito come una storia composta da immagini in sequenza, cioè accostate l'una all'altra in modo da suggerire l'idea del movimento, i cui protagonisti parlano spesso per mezzo di nuvole di fumo che provengono dalle loro bocche, da cui il nome. E qui troviamo naturalmente un'idea fondamentale: le immagini disposte una dietro l'altra in una successione logica, che rimanda direttamente a un'altra definizione equivalente, che è quella nella pessima ma ineludibile traduzione di arte sequenziale di Will Eisner, cioè una disposizione oculata di immagini una dietro l'altra, separate dal fatidico spazio bianco, cioè quello spazio che convenzionalmente nelle gabbie tradizionali, cioè nel modo in cui la pagina è squadrata, separa le vignette, in cui che è riempito dalla nostra mente, dall'attività di percettiva e cognitiva della lettura del fumetto, che è una cosa molto particolare, un tipo di lettura tutto suo. Ma proseguiamo. Benché nel passato non manchino esempi di composizioni pittoriche o grafiche in cui si inseriscono scritte e battute dialogiche, talvolta uscenti dalla bocca stessa dei personaggi raffigurati, come in taluni affreschi medievali o più tardi in stampe, soprattutto satiriche, qui pensiero va per esempio al celeberrimo Arazzo di Bayeux, il fumetto, e questo è molto interessante per noi, come specifica e autonoma forma di espressione, è fenomeno squisitamente moderno, la cui nascita è da mettersi in relazione con la crescente espansione della stampa quotidiana nei paesi industriali alla fine dell'Ottocento, con il progredire dei procedimenti per la stampa a colori a grandi tirature e in genere con il diffondersi dei mezzi di comunicazione di massa, soprattutto del cinema. Cosa ci dice questo? Beh, è un modo espressivo, chiaro e molto rigoroso di espandere una formula che ricorre spesso parlando del fumetto, come di un linguaggio che nasce all'incontro, quindi è un crocevia molto complesso, bello, stimolante, tra arte, artigianato e industria. Quest'ultima voce della terna è quella che riceve negli ultimi anni sempre più attenzione, perché la crisi perdurante, ineludibile, nessuno di noi ha mai sentito parlare un editore di fumetti, un autore di fumetti, un lettore di fumetti in un periodo in cui non ci sarebbe una crisi. Negli ultimi anni è indubitabile, perché ha colpito l'intero settore editoriale con numeri veramente preoccupanti, molto inferiori, parlo dei numeri negativi, i cali nell'ambito del fumetto, va detto, e quindi è naturale che riceva un'attenzione doverosa, perché c'è di mezzo anche un mercato, lavoro per molte persone e la possibilità che questa dimensione industriale venga mantenuta, cosa che molti mettono in dubbio, e al di là dell'aspetto commerciale e finanziario per le imprese e lavorativo per chi ci lavora, si tratta anche della dimensione di mezzo di comunicazione di massa, cioè dalla possibilità per il fumetto di arrivare a un grande pubblico che alcuni, come dire, contemplano con un po' di perplessità. Questo è vero, è sempre interessante parlarne, ma non dovrebbe farci dimenticare gli altri due punti: arte e artigianato. Arte, capacità, potenziale espressivo e ovviamente estetico di produrre opere che influenzano emotivamente, culturalmente il loro fruitore, e l'artigianato, cioè un collettore di capacità anche manuali, di manipolazione della materia con strumenti che sono cambiati nel tempo, ma che alla fine si riconducono alla capacità degli autori di essere narratori con gli strumenti a loro disposizione. Tenere presente tutti fa ricordare che il fumetto non è un genere, non è un ambito commerciale, non è un settore merceologico, non è una nicchia dell'editoria, anche se può essere di volta in volta tutte queste cose, ma è un linguaggio, un modo per raccontare le cose come tanti altri e che a noi piace particolarmente, per questo ci ritroviamo qua tutte le settimane a parlarne. Suoni, ma guarda che mi tocca sentire, pregherò per te che il Dio te lo perdoni, oppure lui ti fulminerà. Zot! Canta, canta quando suona il piano shredder, o se passa di qua Silver Surfer. Swish! Canta, canta quando lei ti bacia, smack, e il lavoro ti è da cart. Che senti un urlare alla luna, urla il campanello nella notte buia, c'è un lavoro per Dylan Dog. I grandi fumetti. Flash Gordon. Il primo numero andò a ruba, tutti i collezionisti lo sanno. Era un giornale semplice, quasi rozzo, non c'era che la traduzione pure semplice, molto alla buona, delle parole nei fumetti. I ragazzi che avevano appena finito le elementari e cominciavano quell'anno il ginnasio con la prima lezione di latino si buttarono avidamente su quel foglio che era diverso da quanto era stato fino a quel momento consentito e consigliato loro di leggere. Tutti i loro giornaletti, tutti i loro libri erano stati fino a quel momento edificanti e istruttivi. Questo giornalaccio, tutte figure, finalmente non insegnavano niente. Non piaceva ai genitori, non piaceva ai professori. Era soltanto divertente nella sua sciaguratagine, nel suo italiano a volte persino sconnesso. I ragazzi della prima ginnasio la corsero senza riserve, fanaticamente, proprio perché non era autorizzato dai grandi. Quel foglio di carta colorata li divise non solo dai genitori e dagli educatori, ma anche dai ragazzi che avevano pochi anni più di loro. Erano già più grandi, non capirono i fumetti e non li hanno capiti mai più. Gli amici di Gordon in Italia sono tutti del 1923 e del 1924. Ce n'è forse qualcuno del 22. Le leve precedenti, per pochi anni di differenza, non vissero quell'episodio chiave di contestazione. A differenza dei loro compagni appena più piccoli, non ebbero né la capacità né la fortuna di fare di quel foglio una bandiera e una sfida, indipendentemente dal merito delle storie. Persero un autobus. Era la prima volta che un gruppo generazionale prendeva vagamente coscienza di se stesso. Ancora adesso i ragazzi di Gordon, destinati a entrare per ultimi nel massacro come nuovi ragazzi del 99, sottolineano con malizia l'incomprensione che ritengono di vedere manifestata sui temi culturali da coetanei che hanno solo pochi anni più di loro, ma sembrano di una generazione precedente. Si divertono e si strizzano l'occhio. Gordon in Italia è un segreto d'intesa, una parola d'ordine. Fin qui, eccetto Topolino, lo scontro culturale tra fascismo e fumetti, un lavoro scritto a sei mani con Fabio Gadducci, Leonardo Gori e Sergio Lama, edito NPE, che ci racconta come Flash Gordon fu il primo elemento di gap generazionale, di prima identificazione dei ragazzi in qualcosa diverso dal mondo degli adulti, molto prima di Elvis Presley o di Jimi Hendrix. Da questo fumetto poi ne sortì una popolarissima serie cinematografica e letteratura d'immagine costruirono un mito. Chi è Flash Gordon? Flash Gordon sostanzialmente è l'avventuriero in senso positivo, ma l'eroe americano a tutto tondo. Agente della polizia a cavallo, alto, giovane, bello, aitante, ma soprattutto senza macchia e senza paura. Proprio quello che vorremmo che fosse un eroe. Qual è il concetto di Flash Gordon? È un concetto essenziale in tutta la narrativa di fantascienza e in tutta la narrativa in senso lato catastrofista. La Terra sta per entrare in collisione con un corpo celeste. È solo questione di tempo. Poi la Terra sarà polverizzata. E Zarkov non si è fatto più vivo. Sosteneva di poter fare qualcosa. Ridicolo. Il razzo celeste di Zarkov è un'utopia. Non potrà mai raggiungere quel pianeta. Altre notizie? Sì, tutto il globo è in subbuglio. Leggete qui. Panico. Disordini. Sommosse. In Arabia, frenetico caos. Scusate. Per me? Grazie. Ma certo, lo manda mio figlio Flash. Ha lasciato i campionati di polo ed è riuscito a trovare un posto sull'aereo transcontinentale. Spera di essere con noi prima della fine. Si tratta di un pianeta vagante, non di una meteora, non di una cometa, pianeta sul quale si ipotizza possa esserci della vita. La collisione sta per verificarsi, ormai mancano pochissime ore, la situazione sulla Terra è sempre più caotica e sempre più disperata, cosa che in questa serie televisiva poi, ma cinematografica in primo luogo, ci viene rappresentata attraverso immagini di repertorio, un montaggio di immagini di repertorio. Ricordiamoci che siamo nel 1936 e quindi questa è una delle prime volte in cui le sequenze di montaggio diventano un importante elemento narrativo. Al tempo stesso, mentre la Terra sta per sprofondare nel caos, dovuto all'approssimarsi della fine del mondo, sarebbe interessante vedere che cosa accadrebbe oggi, visto che la fine del mondo ci viene spacciata in tutte le salse, un scienziato che ritiene di avere la chiave per salvare la Terra è pronto a lanciarsi nello spazio con la sua astronave per arrivare sul pianeta Mongo. Si tratta di Alexis Sharkov, la quintessenza dello scienziato intelligente, eclettico, positivista, nel senso che la scienza può in effetti risolvere, se non tutti i nostri problemi, la maggior parte dei nostri problemi. Questo è il secondo dei compagni di avventura di Flash Gordon e infine abbiamo la bella della situazione, Dale Arden, delicata, dolce, avventurosa, la quintessenziale damsel in distress, ma al tempo stesso la quintessenziale eroina d'azione, in grado di affrontare sfide sia fisiche che psicologiche e, potete giurarci, ce ne saranno moltissime da affrontare. Questo strano terzetto di avventurieri, sempre nel senso positivo del termine, si imbarca sull'astronave privata e personale del professor Sharkov, procedono a un lancio in condizioni molto difficili, in quanto le forze gravitazionali del pianeta Mongo incombono, e raggiungono il pianeta Mongo. È la fine, professor Gordon. Quel pianeta precipita sulla Terra. Soltanto un miracolo potrebbe salvarci. La pioggia di meteoriti distruggerà l'aereo. Scusatemi, ma qui è un inferno! La colpa è di quel pianeta, ha sconvolto l'atmosfera. Attenzione, signori. Tenteremo l'atterraggio, ma non siamo sicuri di farcela. Se qualcuno non se la sente di rischiare, c'è un paracadute sotto ogni sedile. Mi raccomando, signori, fate con calma, cercate di non perdere la testa. Avanti, potete uscire. Aspettatemi, vi prego! Questa è una serie cinematografica del formato di 17 minuti a episodio, per un totale di 13 episodi. È un documento storico eccezionale, sia nella tematica che nello sviluppo narrativo. Una serie di elementi che sono stati poi ripresi e continuano a venire ripresi dall'intero spettro della narrativa d'azione, sia essa cinematografica, televisiva, a fumetti. E quindi non è un caso che ci troviamo nell'Olimpo del fumetto, perché Flash Gordon origina come fumetto, quanti concetti e quanti elementi visuali sono stati inventati da Flash Gordon in fumetto prima, in serie cinematografica poi, e ripresi in seguito, continuano a venire ripresi in seguito, da tutti quelli che sono grandi registi, grandi scrittori, grandi illustratori, grandi visualisti. Facendo un passo in avanti, nelle avventure delle ulteriori serie di Flash Gordon appare la foresta di Arboria, un'area lussureggiante, come il nome stesso dice, sempre del pianeta Mongo, un'antesignana dell'incredibile foresta che abbiamo visto, ad esempio, in Avatar di James Cameron. Seguendo questa serie, esaminando ogni episodio, osservando ogni episodio, troveremo riferimenti, parallelismi e una quantità di spunti che a tutt'oggi sono pienamente validi. Quindi, ripeto, un documento storico eccezionale, ma anche un documento visuale eccezionale. Troverete quelle che oggi considereremmo delle ingenuità, ma saprete inquadrarle nell'epoca in cui questa serie venne concepita e realizzata, vale a dire il 1936. Mio padre... Vostro padre pensa che sia matto, e anche gli altri. Ma io so come salvare la Terra. Io quel maledetto pianeta posso fermarlo. Sono sicuro. Lo sospinge una forte energia radioattiva. Se riuscissi a raggiungerlo con il mio razzo, credo che potrei agire sulla sua potenza, in modo da deviarlo su un'orbita diversa. Perché non ci provate? Il mio assistente mi ha abbandonato ieri. Era proprio un vigliacco. Da solo non posso farcela. Verreste voi. È l'ultima speranza di salvare la Terra. Si può tentare. Giocherò nella vostra squadra. Quando cominciamo? Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman?